che puoi sentir la voce mia dal cielo. Aiutami, l'unico mio amore se ne va da me. Sola morirei, lo sai. Aiutami, anche se puoi dirmi che non prego mai. Perdonami, fa che ritorni. Sola amore.